GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una tragedia da chiarire il giorno dopo l'omicidio-suicidio di Pertegada. La comunità si interroga su cosa possa aver scatenato la furia dell'anziano che ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. La regione presenta il suo progetto per lo sviluppo del turismo, obiettivi la promozione dell'ospitalità e la diversificazione dell'offerta. Il liceo del Made in Italy apre le porte al pubblico, l'Istituto Nordio di Trieste, prima realtà in regione ad attivare questo nuovo percorso di studi. Un documentario per chiedere verità e giustizia domenica a Fiumicello, l'anteprima del film sulla vicenda di Giulio Regeni, ne abbiamo parlato con il regista. Il silenzio e complicità, la solidarietà salva vite, continua la mobilitazione degli esuli iraniani a sostegno della protesta contro il regime degli Ayatollah. Nel giornale la testimonianza di una donna che vive in regione da alcuni anni. Arriva la fiaccola olimpica, Trieste nel pomeriggio accoglie il corteo che si snoderà da Viale Miramare a Piazza Unità, domani tocca Udine e Gorizia, domenica Pordenone. ASU, 150 anni per lo sport, il sodalizio udinese celebra l'anniversario con una tavola rotonda insieme al ministro Abodi. 12:31 minuti, 17 secondi in questo istante. Ancora buongiorno da Dario Ronzone e Andrea Vardaneghe, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio regionale. In primo piano ancora l'omicidio-suicidio di Pertegada, una tragedia familiare tutta da chiarire. Un anziano che uccide la moglie di un paio d'anni più giovane e poi si toglie la vita senza che nulla nella vita della coppia o nello stato di salute dei due potesse far temere niente del genere. Due anziani con una rete di relazioni solida e affidabile. Per capire cosa sia successo, si parte dall'enigmatico biglietto in cui l'uomo ha affermato di aver agito per amore. Luigi Codotto, 80 anni, Luigia Rossi, 78, si erano sempre più isolati socialmente negli ultimi tempi e si erano rintanati nella loro casa di Pertegada, una frazione tra la Tisana e Lignano. Qualche problema in famiglia c'era, ma nulla che lasciasse presagire quanto accaduto, un efferato femminicidio-suicidio per il quale Codotto ha utilizzato un'accetta. Vediamo situazioni ben peggiori, chiarisce il sindaco di La Tisana, Lanfranco Sette, che conferma che i servizi sociali del comune non erano stati attivati. Vicini riferiscono della presenza dei carabinieri in passato in quell'abitazione, ma non risultano denunce per violenza, anche se resta oscura la ragione per la quale i militari fossero stati visti lì. I due anziani coniugi lasciano tre figli. È stata una di loro a trovare i due corpi esanimi entrando in casa dopo non aver ricevuto risposte al telefono. Emerge inoltre un nuovo elemento: a Codotto era stata ritirata un'arma, una pistola che deteneva regolarmente fino a quando ha omesso la presentazione del certificato medico che ogni 5 anni va inviato alle autorità. Così è partito un procedimento amministrativo che si è concluso con il ritiro della pistola stessa. Intanto, il giorno dopo la tragica scoperta, la villetta di Via Casette resta circondata dal nastro biancorosso con su scritto «Carabinieri, non oltrepassare». Su una ringhiera al primo piano una cintura appesa al piano terra, ancora un'illuminazione natalizia all'esterno e sulle porte, i sigilli. L'abitazione è sotto sequestro per possibili approfondimenti di indagini. Anche se non sembrano esserci dubbi sulla dinamica dei fatti, tuttavia è plausibile che la procura disponga le autopsie. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Più incentivi per l'ospitalità e promozione di varie tipologie di turismo sono alcuni degli elementi presenti nel piano regionale per il turismo che viene illustrato in questo momento in un incontro al Palazzo della Regione a Trieste. Ne abbiamo parlato con l'assessore alle attività produttive e al turismo Sergio Bini, che ci ha tratteggiato i contenuti. Un piano atteso dal 2014, quindi abbiamo aspettato molti anni, abbiamo presentato oggi proprio un piano anche futuristico che fa una fotografia dell'oggi, dove siamo, ma soprattutto dove andremo. Non c'è dubbio che in questi anni abbiamo alzato in maniera sensibile l'asticella della competizione, tant'è che il Friuli Venezia Giulia è diventata una delle regioni più ricercate a livello nazionale, soprattutto per una forma di turismo che adesso sta andando per la maggiore. Il turismo lento, cioè i borghi, le aree interne. È chiaro che questa analisi, questo piano tiene conto anche dei punti ancora da migliorare, quindi quello che è emerso, la necessità di saper analizzare e valorizzare i dati raccolti per quanto riguarda le presenze turistiche, per esempio, ma la distribuzione sui territori, la tipologia di turisti presenti, italiani piuttosto che stranieri, continuare sulla strada che stiamo già facendo, vale a dire investire in strutture ricettive ad uso turistico, quindi alberghi, alberghi diffusi che stanno andando molto, appartamenti ad uso turistico, quindi continuare su questa strada, mettere a denominatore comune con un'unica offerta le tante offerte che il Friuli Venezia Giulia è in grado di offrire e potenziare quelli che sono gli strumenti tipo le app, tipo le carte FVG che oggi ci sono, ma hanno delle potenzialità di crescita ulteriore. Non si ha paura dell'overtourism? No, Friuli Venezia Giulia la vedo molto complicata. L'unica vera grande città, ma che comunque non rischia l'overtourism, è Trieste. Le altre città sono dei grandi paesi, quindi il rischio overtourism è pari a zero. Porte aperte oggi all'Istituto Nordio di Trieste, la prima scuola della regione, ad attivare il liceo del Made in Italy. Un percorso scolastico che abbraccia discipline umanistiche, scientifiche e tecniche, integrandole con quelle economiche e giuridiche. È il liceo Made in Italy che dal prossimo anno scolastico entrerà a far parte anche della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia presso il liceo artistico Nordio di Trieste, scuola storica e radicata nel territorio. Gli studenti potranno acquisire gli strumenti necessari per analizzare gli scenari storico-geografici, artistico-culturali e lo sviluppo industriale dei settori produttivi. La formazione sarà caratterizzata da un approccio interdisciplinare tra materie, laboratori e progetti su casi reali, in collaborazione con le imprese del territorio. Dopo il diploma si potranno intraprendere strade diverse, dall'iscriversi all'università ad entrare nel mondo del lavoro seguendo orientamenti proposti dall'indirizzo formativo. Il dirigente scolastico, Giuseppe Verde, evidenzia anche l'obiettivo di valorizzare le filiere produttive italiane e l'internazionalizzazione dei prodotti made in Italy. Al Nordio è previsto per oggi alle 17 l'Open Day. Tra le istituzioni presenti ci saranno rappresentanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Regione e del Comune di Trieste. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio online sulla piattaforma unica. È previsto ancora un Open Day a fine gennaio. Da Trieste, Barbara Ferluga, GR Friuli Venezia Giulia. Domenica prossima ricorrono 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni al Cairo. Oggi è stato diffuso il programma dettagliato delle iniziative che a Fiumicello domenica torneranno a chiedere verità e giustizia. Tra i nomi attesi figurano Elisa, Don Luigi Ciotti, Alessandro Bergonzoni, Pif, Gerardo Colombo e Delly Schlein, accanto a molte altre voci che nel tempo hanno scelto di schierarsi. La giornata è curata da Paola Defendi, Claudio Regeni, i genitori di Giulio, dall'avvocata Alessandro Ballerini, dal collettivo Giulio Siamo Noi e dalla giornalista Marina Tuni, in collaborazione con il comune di Fiumicello Villa Vicentina e con Articolo 21. Il programma si aprirà alle 14.45 alla pista di pattinaggio di Fiumicello con il flash mob 10 anni in giallo, un'onda d'urto seguito dall'incontro Parole, Immagini e Musica per Giulio. Tra gli interventi, gli contributi e gli ospiti. Nel corso del pomeriggio interverranno inoltre Gianni Cuperlo, Marco da Milano, Pietro del Soldà, Giuliano Foschini, Giuseppe Giulietti e Mattia Macor, accanto agli ospiti già annunciati. Previsti contributi video di Vinicio Capossela, Lella Costa e Roberto Fico, mentre Lorenzo Terranera realizzerà ed invierà un'immagine dal vivo durante l'evento. Alle 19, come ogni anno, un corteo partirà da Via Carnera, la camminata dei diritti, verso il piazzale dei Tigli, dove alle 19.41, l'orario in cui nel 2016 si persero le tracce di Giulio, si terrà il minuto di raccoglimento e la fiaccolata silenziosa. Il cuore della giornata sarà però la proiezione in anteprima nazionale alle 17 del documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, che uscirà a inizio febbraio nelle sale di tutta Italia. Scritto da Emanuele Cave e Matteo Billi, prodotto da Ganesh Produzioni con Fandango, è stato diretto da Simone Manetti. Abbiamo intervistato il regista. Ne risultano rapporti tra Giulio Regeni e la sua agenzia? Assolutamente no, non era un agente del servizio italiano. Nostro Gianluca. Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. La frase della mamma di Giulio, che ha raccontato di avere riconosciuto il figlio soltanto dal naso per quanto era stato massacrato, è diventata il titolo di questo documentario, Tutto il male del mondo, che, spiega il regista Mainetti, non è solo quello che ha colpito la famiglia. È un male sistemico, cioè quello che emerge appunto quando i diritti vengono negati, quando la verità viene ostacolata e quando la violenza diventa uno strumento di potere. Raccontare storie alla fine è un po' l'unico modo per impedire che queste svaniscano. E la storia di Giulio è una storia che non può svanire perché riguarda tutti noi. Non è la storia di un ragazzo, di una famiglia, è una storia che riguarda tutti noi perché tocca i diritti essenziali dell'uomo. Questo film significava assumersi la responsabilità di tenere aperta una ferita, non per morbosità, ma perché senza la memoria probabilmente non esiste giustizia e senza un racconto non esiste la memoria, appunto. Nel film, oltre alla ricostruzione della vicenda e al racconto del processo interamente ripreso dalle telecamere del regista, contiene le testimonianze dei genitori di Giulio e dell'avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini. E abbiamo deciso di intervistare solamente loro tre perché ci sembrava giusto che a parlare di Giulio come persona, come essere umano, fossero solo le persone che realmente ne avevano il diritto. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il referendum sulla giustizia, oggi a sostenere le ragioni del sì arriva il ministro Carlo Nordio. L'evento è promosso dal segretario regionale di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto e sarà moderato da Tommaso Cerno alle 18 al Centro Culturale Le Grazie di Via Pracchiuso a Udine. E il Centro Balducci, articolo 21, e l'Associazione Libera sempre per stasera promuovono un dibattito sul referendum moderati da Beppe Giulietti. Dialogheranno Matteo Carlisi, magistrato del Tribunale di Udine e rappresentante locale dell'ANM, e Giancarlo Buonocore, già procuratore presso la Procura della Repubblica di Tolmezzo e avvocato presso la Corte d'Appello di Venezia. L'incontro a Zugliano alla Sala Petris alle 18. Il flusso di informazioni sulla rivolta contro il regime degli ayatollah in Iran si è sostanzialmente interrotto e la vicenda è sostanzialmente scomparsa dalle pagine dei giornali. Questo non significa che la protesta e che le violenze della repressione siano finite. Alleanza Verdi e Sinistra e Rifondazione Comunista hanno organizzato una manifestazione di solidarietà al popolo iraniano. Aderiscono anche altri partiti e associazioni, a cominciare dal PD e da Open Sinistra, Friuli Venezia Giulia, alle 17 in piazza Matteotti a Udine. E una nuova manifestazione annunciata dagli iraniani che vivono qui per domani, sempre alle 17, però in piazza Cavour a Pordenone, nella convinzione, si legge in un comunicato, che il silenzio significa complicità e che la solidarietà invece può salvare vite. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un'architetta iraniana che da anni vive e lavora nella nostra regione. Sono alcune centinaia gli iraniani che vivono in Friuli Venezia Giulia. Una parte di loro nei giorni scorsi è scesa in piazza a sostegno della rivolta in corso contro il regime degli ayatollah. Molti temono di farsi riprendere dalle telecamere perché le feroci rappresaglie messe in atto contro il dissenso potrebbero colpire in Iran le loro famiglie. Tra quanti si battono per sostenere chi protesta in patria, una giovane architetta che vive e insegna in Friuli Venezia Giulia. Come sarebbe stata la sua vita in Iran se lei fosse rimasta nel suo paese e come sarebbe oggi? Sarei stata uccisa o in prigione, comunque sarei stata arrestata, perché io da quando sono nata sono una ragazza ribelle, una che lotta contro le ingiustizie. La protesta che è in corso in questo momento, quanto ha a che fare con la nascita del movimento Donna Vita Libertà? Come si è evoluta? Tutto è cambiato, ovvero noi vogliamo proprio la caduta del regime e ripetiamo dire o adesso o mai più. Quindi non c'è una speranza di un cambiamento o qualsiasi cosa, e non stiamo combattendo più per i diritti delle donne, non stiamo combattendo più per l'hijab, non è questo, è proprio per la libertà. Ha notizie di prima mano dal suo paese? Negli ultimi 3 giorni alcuni hanno avuto la possibilità di collegarsi in internet e possiamo ricevere delle chiamate dall'Iran, ma noi non possiamo chiamare nessuno. Quindi le notizie e i video arrivano perché ci sono dei canali dedicati che raccolgono i dati e i documenti, ma come dicono 1% di quello che è veramente successo. Quello che a noi attualmente abbiamo ricevuto non è tutto. E anche i dati, anche il numero delle persone uccise, quello che sappiamo noi è che in 2 giorni sono stati uccisi 16.500 persone. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Comincia oggi la 3 giorni in regione della fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina 2026, partenza ufficiale del corteo alle 14.45 ad Aquileia per poi passare da Ronchi dei Legionari a Monfalcone e proseguire verso il parco del castello di Miramare. Da qui alle 17.45 la fiaccola ripartirà per Piazza dell'Unità d'Italia, dove l'accensione del braciere è prevista alle 19.30 in una manifestazione che comincerà alle 17. Interverranno autorità regionali e cittadini, tra cui il presidente della regione Massimo Emiliano Fedriga, il sindaco di Piazza e il presidente del CONI regionale Andrea Marconi. In totale a Trieste ci saranno 42 tedofori che percorreranno un totale di 8,5 km, alternandosi ogni 200 metri. Tra loro Veronica Toniolo, olimpionica di Juno, Giovanna Micol, velista del team che ha vinto la prima edizione della Coppa America femminile, e Matteo Parenzan, campione paralimpico di tennis tavolo, Alberto Tonut, cestista oro agli europei di Nantes del 1983 e Margherita Granbassi, 2 bronzi a Pechino 2008 nel Fioretto. In occasione del passaggio della fiamma olimpica al comune di Trieste, dalle 17 alle 19.30 ha previsto modifiche al traffico sul percorso dei tedofori, che include anche Viale Miramare, Piazza della Libertà, Corso Italia, Piazza Goldoni, Corso Saba, Largo Barriera, Via Molino a Vento, Largo Pestalozzi, Via dell'Istria, Via Locchi e le rive. Sarà garantita la circolazione dei mezzi pubblici, anche se non è da escludere qualche deviazione rispetto ai percorsi tradizionali. Domani il convoglio partirà da Gorizia alle 10.45 per dirigersi a Palmanova e Cividale e giungere a Udine alle 19.30. Infine, domenica la fiamma partirà alle 10.45 da Pordenone con destinazione il Veneto. Il ministro dello sport Abodi ha partecipato stamattina alle celebrazioni per il 150° anniversario di fondazione dell'Associazione Sportiva Udinese ASU, una tavola rotonda che è stata l'occasione per affrontare 4 tematiche in particolare: cultura e sostenibilità nella vita sportiva, investimenti negli impianti sportivi, bilancio sociale integrato di sostenibilità e rete di impresa per attivare percorsi di avvicinamento al lavoro. Abbiamo intervistato Alessandro Nutta, presidente dell'associazione. 150 anni per l'ASU, si chiudono i festeggiamenti. Come è cambiato il ruolo dell'ASU? Qual è oggi? Oggi chiudiamo, appunto, come si diceva, i 150 anni attraverso una tavola rotonda che svilupperà dei temi che trattano proprio del cambiamento, proprio di approccio di un'associazione sportiva. Nel caso dell'Associazione Sportiva Udinese, cambia l'approccio al trattamento proprio del mondo dello sport, nel senso che oggi discuteremo di temi che sono ormai diventati importantissimi e imprescindibili per lo sviluppo delle attività sportive. Come sappiamo, anche la politica sportiva si sposta verso un principio di sport e salute, e oggi tratteremo proprio questi temi di sviluppo, cosa che ASU sta già facendo al suo interno attraverso una serie di progetti che vedono coinvolte tutte le istituzioni, gran parte delle fondazioni del Friuli Venezia Giulia e una serie di enti privati che sostengono tutte le attività che intendiamo svolgere proprio in un'ottica di trasformazione dello sport proprio e anche di trasformazione dell'Associazione Sportiva Udinese. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 12.48 diamo uno sguardo al tempo con cielo nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a coperto in montagna, con le temperature registrate alle 11 a Trieste 7,5 gradi, a Gorizia e Pordenone 6,5 gradi e Udine 6 gradi, a Forni di Sopra 2,5 gradi, a Tolmezzo 2 gradi, a Piancavallo 1, a Trevisio -1,5 gradi e a Sappada -3 gradi. Sul Monte Lussari -4 gradi e sullo Zoncolan -4,5 gradi, a Lignano sulla costa 5,5 gradi e a Grado 5 gradi. Adesso sentiamo come sarà il meteo nei prossimi giorni con Giuseppe Visagli dell'ARPA regionale. Nei prossimi giorni la situazione tenderà a peggiorare a causa dell'avvicinamento di una depressione atlantica da ovest che riporterà correnti più umide occidentali e alcuni fronti. In particolare un fronte già passerà nel corso della notte prossima, quindi ci aspettiamo cielo coperto nella giornata di sabato con precipitazioni sparse, in genere moderate, localmente anche abbondanti sulle zone orientali, che perdureranno fino al primo pomeriggio di sabato. Poi la situazione tenderà a migliorare, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Nella notte sarà possibile neve a partire dai 500 metri, poi quota neve in rialzo fino a 800.000 metri. Non è esclusa la possibilità anche di ghiaccio al suolo nel corso della notte nelle valli più basse, intorno ai 300 metri di quota nella zona montana. E le temperature saranno stazionarie nei valori massimi, con valore appunto tra i 7 e gli 8 gradi. Poi la giornata di domenica sarà caratterizzata dal cielo nuvoloso, con il passaggio di un altro fronte nel corso della notte e della mattina, con piogge che potranno essere in genere moderate, localmente anche abbondanti, probabilmente sulla fascia prealpina, con quota neve in rialzo fino a 1000-1200 metri. Temperature minime in rialzo rispetto ai giorni precedenti, con valori intorno ai 4-6 gradi sulla pianura. Poi l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da una tregua, cielo variabile o nuvoloso ma senza precipitazioni significative, con temperature minime in diminuzione soprattutto martedì. Poi, forse mercoledì, il passaggio di un altro fronte con precipitazioni che sembrano attualmente abbondanti o intense, ma su questo ci aggiorneremo. In generale è stato un inverno caratterizzato da scarse precipitazioni? Sì. Ha piovuto poco, anche nevicato ovviamente poco, soprattutto in Carnia, con valori intorno ai 10 mm, sulla pianura intorno ai 20 mm, ha piovuto un po' di più sulle prealpi carniche, prealpi giulie, con valori intorno ai 70-80 mm. In generale comunque risulta una prima metà dell'inverno piuttosto secca, una delle più secche degli ultimi 30 anni. Una notizia di cronaca appena battuta dalle agenzie: una donna di 43 anni, Donatella Malisa, è scomparsa da Trieste il 20 gennaio. Un appello per la sua ricerca è stato diffuso sui social dall'associazione Penelope Friuli Venezia Giulia. Nell'appello si descrive una donna dai capelli brizzolati, cortissimi e una corporatura esile. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero con collo azzurro, jeans scuri e scarpe da ginnastica. Nell'avviso l'associazione precisa che la donna potrebbe essere in difficoltà. Per eventuali segnalazioni si invitano le persone a contattare il numero di emergenza 112, la Questura di Trieste o la stessa associazione Penelope. Dopo Pordenone, anche Gorizia ha fatto il punto sulla sicurezza nei locali pubblici nel quadro della campagna voluta dal Ministero dell'Interno dopo la tragedia di Cramontana. In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, la prefetta Fedullo ha sottolineato la necessità di intensificare i controlli, specie sui bar e ristoranti che non rientrano nella disciplina delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, ma che offrono comunque servizi anche occasionali di intrattenimento. Impegno in questo senso è stato garantito da Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Comuni e associazioni di categoria. A queste ultime la prefetta ha chiesto di sensibilizzare gli aderenti sui temi della sicurezza. Emersa anche l'esigenza di un'adeguata formazione per i gestori dei locali perché siano indotti ad adottare soluzioni rispettose della normativa. Il comune di Pordenone annuncia di aver completato l'intervento di valorizzazione dell'ex battirame. Si tratta di un edificio principale a due piani più uno stabile accessorio per un totale di circa 400 metri quadri di superficie utile, inserito in un'area scoperta di 2500 metri quadri nel Parco San Carlo. Il recupero è stato realizzato con fondi PNRR. L'amministrazione, dopo gara, intende assegnare gli spazi ad un'associazione o ente del terzo settore che presenti un progetto di organizzazione e gestione di attività sociosportive ed educative con una concessione di 6 anni. CIA Friuli Venezia Giulia, agricoltori italiani, esprime forte preoccupazione per le vicende legate alla chiusura del macello di Cormons. Tutto il comparto legato alla filiera dei suini sta soffrendo, si legge in una nota nella quale il presidente regionale Franco Clementine chiede agli amministratori locali e regionali, alla politica e alle organizzazioni tutte, un tavolo di concertazione per trovare una soluzione almeno temporanea che porti a far finire la stagione lavorativa invernale. Il macello di Cormons è stato chiuso per motivi di sicurezza il 31 dicembre. La sua rimessa in funzione richiederà almeno 2 anni. La soluzione alternativa di cui si è parlato è la rimessa in attività del macello di Prosecco, che a questo scopo dovrebbe essere acquistato dal Comune di Trieste, che comunque non potrebbe rientrare in funzione prima di 3-4 mesi. Siamo allo sport. Stasera la Triestina gioca l'anticipo di campionato contro il Lumezzane alle 20.30 allo Stadio Rocco. La formazione alabardata sarà guidata da Giuseppe Marino, richiamato in panchina dopo la separazione consensuale con Tesser. Ieri in conferenza stampa il tecnico ha ribadito comunque di non essere tornato per fare il traghettatore di una squadra in disarmo e si è detto invece deciso ad affrontare la situazione partita dopo partita. Come noto, la situazione di classifica non autorizza grosse speranze di salvezza. piazza. Gli alabardati sono a quota 2 sotto 0 e a 14 punti dalla penultima in classifica. Il biathlon, ultimo appuntamento con la Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi. Questa sera a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, si disputa l'individuale breve femminile sulla distanza di 12,5 km. Lisa Vittozzi parte con il pettorale 42, l'inizio della competizione alle 18:15. E con il biathlon chiudiamo questa edizione meridiana del giornale Radio Regionale, che è stata redatta ed è stata condotta da Dario Ronzoni e Andrea Vardanega. Zeno Duban ha collaborato in redazione, Mauro Cumine Bruno Montevecchi hanno assicurato la parte tecnica. Prossimo appuntamento con l'informazione radiofonica regionale, il GR delle 15, ma vi ricordiamo anche il telegiornale del Friuli Venezia Giulia, in onda come di consueto alle 14 precise sulla terza rete televisiva della RAI. Il flusso informativo della nostra emittente per il Friuli Venezia Giulia prosegue anche sui nostri siti rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR RAI FVG. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.